Una buona serata dalla voce di Marco Gravelli. Inizia una nuova settimana insieme con lo spazio serale dalle 20 alle 21, da lunedì al venerdì su Rock FM con Arden Daily, offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Il sito internet www.mariposadischi.it. Il saluto come sempre e ringraziamento va al nostro autore Simone, che ci permette di partire come facciamo ogni sera con il passato, riallacci al mondo hard rock e heavy metal, anche se domani vi preannuncio che nella seconda parte avremo l'intervista effettuata la scorsa settimana qua nei nostri studi con il cantante degli Hardcore Superstar. Ma per questa sera si parte con una band americana, nasce nel 1984, si chiamano Tesla, esordio avviene nel 1986 con l'album Mechanical Resonance, la cui notorietà poi arriva con i tre lavori seguenti, che arrivano intorno alla decima posizione nelle classifiche americane e anche con una ballad love song che si piazza molto bene nei singoli. La band si sciolse 10 anni dopo, 1994, per riunirsi nel 2000. Nel 2004, in occasione dei 20 anni di carriera, o 10 meglio dire, visto che per 10 anni sono rimasti fermi, era uscito il loro quinto album, Into the Now. A 3 anni e mezzo da quel lavoro, da pochi mesi, è uscito Real to Real e si tratta di un album di cover, almeno nella parte 1. La parte 2 verrà pubblicata tra breve e si potrà trovare solo tramite il loro sito internet. Dall'album The Great Radio Controversy, che arrivò al numero 18 nelle charts americane dell'epoca, andiamo ad ascoltare le note di Heaven's Trail, No Way Out. Sono i Tesla. Out, No Way Out, dall'album The Great Radio Controversy. La formazione è quella dei Tesla. Con loro abbiamo dato ufficialmente lo start al nostro appuntamento di questa sera, dal mondo dell'hard rock al mondo del power metal, dell'heavy metal meglio dire, con la prossima band Overkill, thrash metal band americana nata nel 1980. Fondatore il bassista Didi Verni, che è ancora insieme al cantante Bobby il presente nella lineup ufficiale della band, con il cantante appunto Bobby Ellsworth. Il nome scelto Overkill deriva dall'album, ispirato all'album famoso dei Motorhead, ed è grazie a un demo che partecipano a due compilation e poi ottengono un contratto. Esce nell'84 l'omonimo EP con 4 brani, 2 dei quali verranno poi inseriti nel loro album d'esordio, che arriva nell'85 e si intitola Feel the Fire, che viene accolto dalla critica come un capolavoro. Quest'album gli va su un tour di supporto a band come Megadeth ed Anthrax. Con il secondo album Taking Over, la band vede accrescere la propria notorietà. Nel corso degli anni il gruppo ha avuto diversi cambi di line-up, ma nonostante tutto ha continuato a registrare album anche quando il thrash era passato di moda con l'avvento di altri generi. L'ultimo album in studio, pensate, risale a 2 mesi fa, Immortals. Gli Overkill suoneranno in Italia il 10 di marzo del 2008 all'Alcatraz di Milano. Ebbene, dal loro primo EP, quello contenente 4 pezzi, che venne pubblicato per una piccolissima etichetta, andiamo ad ascoltare il brano che apriva. Ci saranno 2 canzoni sulla side A, 2 sulla side B. Questo è l'EP, il pezzo è Rotten to the Core, Overkill. Se non sbaglio, proprio questo, insieme al motivo Overkill, sono una delle due canzoni che vengono poi inserite nell'album d'esordio Feel the Fire. Questo EP è uscito nell'84, pubblicato su un'etichetta indipendente metal americana chiamata Metal Storm, e questa era Rotten to the Core, la formazione degli Overkill. Ritorniamo invece alle cose più recenti. È uscito a metà settembre il secondo album per questa band svedese, si chiama The Puddles, il nome del gruppo, Sweet Trail è il titolo dell'album. L'album debutto è arrivato ai primi posti nelle classifiche di vendita in Svezia, si intitolava Metal Will Stand Tall, li ha portati anche in Italia lo scorso anno a supporto di Crocus Hammerfall. Questo, ripeto, è il secondo album. La band è composta da quattro elementi, tra cui ci sono da segnalare il cantante Jakob Samuel e il chitarrista Pontus Norgren, entrambi militanti anche nella band dei The Ring, mentre il bassista Pontus Egberg aveva militato nei Lion Share. Li ascoltiamo col brano Street of Fire dalla Svezia The Puddles. Di fuoco, Streets of Fire, titolo di questo pezzo dal secondo album degli svedesi The Puddles, era Sweet Trail il titolo dell'album. Ritorniamo al passato e ci torniamo con una band che tutti conoscono dagli anni 90 in avanti, magari un po' meno conoscono la loro storia antecedente. Sto parlando dei Pantera, che non hanno iniziato con Phil Anselmo alla voce, con il sound decisamente potente che ben conoscete. Anzi, la band è diventata famosa appunto con l'album Cowboys from Hell, ma alle spalle aveva già quattro album dal sound molto differente. Il gruppo in effetti nasce nell'81, quando fu creato dai due fratelli Abbott, cioè il chitarrista Darrell e il batterista Vincent Paul, e a completare la line-up all'epoca c'era il bassista Rex Brown e il cantante si chiamava Terry Lee Glaze. Con questa formazione arrivano all'esordio con l'album del 1983 dal titolo Metal Magic, sound molto vicino a Kiss e Van Halen. Stesso discorso per i due album seguenti, Project in the Jungle dell'84 e I Am the Night dell'85, che prenderemo in considerazione, pubblicati sull'etichetta come vinile Metal Magic Record. Poi sono stati anche ristampati su CD. Subito dopo la pubblicazione dell'album I Am the Night, Terry Lee lascia la band ed è in occasione del quarto album Power Metal dell'88 che fa il suo esordio, il famoso Phil Anselmo. E poi si ha una svolta musicale, naturalmente, con Cowboys From Hell, dal sound decisamente più pesante, soprattutto nelle chitarre. Seguono altri grandi e celebri lavori come Vulgar, Display of Power, The Great Southern Tranquil, Reinventing the Steel. Arriva lo scioglimento nel 2003. E da qui i vari musicisti intraprendono progetti differenti, quali i Damage Plane, creati da Darrell e Vinnie Paul, con i quali incisero un album nel 2004, mentre Phil Anselmo porterà avanti Down. Da ricordare purtroppo che l'8 dicembre del 2004, durante un concerto dei Damage Plane, Dimebag Darrell fu ucciso sul palco da un pazzo che gli sparò. Andiamo quindi all'album I Am the Night, alla voce Terry Lee Glaze, la formazione è quella dei Pantera, li ascoltiamo col pezzo che apriva l'album, intitolato Hot and Heavy. Pantera! I'm gone. Strano ma vero, questi sono i Pantera, 1985, con questo album su Metal Magic Records. Prima di questo c'erano altri tre album, sempre il sound molto hard rock americano, e poi, come abbiamo spiegato, cambio totale di bassista, se ne va Rex Rocker, se ne va Terence Lee che era il cantante, e rimangono i due fratelli, Vinnie e Vinnie Paul e Diamond Darrell. La band con Phil Anselmo cambia decisamente corso musicale. Oggi li abbiamo ritrovati con Hot and Heavy dall'album I Am in the Night. Ripeto, se siete interessati, magari i vinili è un po' più difficile trovarli, ma le ristampe in CD ci sono. Siamo in settimana, periodo natalizio, allora chiudiamo questa prima parte di Hard and Heavy di questa sera con un Christmas project legato al metal. Ce ne sono stati diversi, abbiamo preso in esame questo progetto che risale al 1985 e che vedeva impegnate molte delle più importanti band tedesche metal dell'epoca, come i Rage, Holy Moses, Living Death, Macon Delta, Tankard e Steeler. Come suggerisce il nome, si tratta delle canzoni natalizie reinterpretate in chiave metal. Ce ne sono alcune cantate in lingua inglese, altre della tradizione invece tedesca, cantate in lingua tedesca. La prima uscita fu nell'85 con un EP dal titolo Banging Round the Christmas Tree, seguito nell'86 dal vero e proprio album con 8 pezzi, intitolato appunto Christmas Project. Nel 95 è uscito il secondo volume, che riprendeva il primo album con l'aggiunta di nuove tracce sempre natalizie. Il pezzo che vi propongo si intitola Why Christmas, dall'album Christmas Project. Per il Christmas Project che arriva dalla Germania, ci sta, e c'è tempo anche per un altro brano, questa volta italiano, con l'esordio di questo progetto hard rock composto da tre elementi che si chiamano Fool's Moon, che vede in line up il cantante Jacopo Mellie dei Mantra e anche dei celebri Tigers of Pentang. Musicalmente propongono hard rock americano ed inglese del periodo dal 75 all'85, un progetto nato per divertimento, però una volta composte le tracce decidono di registrarle. Le fanno sentire al bravissimo Gianni Della Cioppa, noto giornalista del settore nonché proprietario dell'etichetta Andromeda Relics, che entusiasta li ha messi sotto contratto e ne ha pubblicato questo CD dal titolo Behind the Sky. Ci sono 11 tracce, una delle quali è la cover di Diamond Lights dei Diamond Head. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Snakes and Ladder. Loro si chiamano Fool's Moon. We'll be right back. parte di Arden Daily per il nostro primo appuntamento, o terzo se seguite la replica, sempre ogni sera da lunedì al venerdì su Rock FM, la voce di Marco Gravelli, il sound tutto italiano, grande proposta per questo prog heavy effettuato dai i Pathos Ray, 5 elementi nati nel 2000, la prima si chiamavano NDI, poi hanno inciso un demo nel 2001 con questo nome e l'hanno cambiato l'anno seguente. Seguono diversi anni nei quali suonano dal vivo e finalmente nel 2006 registrano un nuovo demo, soprattutto quest'album. Lo hanno spedito all'agenzia danese che ogni tanto io cito, cioè la Intromental, che grazie a loro riescono a ottenere un contratto con la Sensory Records. Per rendere migliore il sound dell'album, che era stato registrato qua in Italia, viene mixato e masterizzato da uno degli esperti del genere, Tom Jensen, presso i suoi studi in Danimarca. Il risultato, come avete sentito, è veramente valido. Anche la copertina si sono affidati a Mattias Nören, che ha già effettuato copertine per Aireon, Evergrey e Camelot. Il prossimo prodotto che andiamo a presentare, ve lo non con un brano intero perché è un'anteprima assoluta, uscirà tra un mese, il 20, anzi di più, 25 di gennaio, è il terzo album del progetto Avantasia, il cui leader ideatore è il cantante tedesco Tobias Sam degli Ebguy, che noi abbiamo ospitato qualche settimana fa. Claudia lo ha intervistato, proporremo l'intervista una settimana prima dell'uscita ufficiale di quest'album che si intitola The Scarecrow. Ci sono 11 tracce, come vocalist oltre a Tobias sono presenti Oliver Hartman, ex Advance, Roy Khan dei Camelot, Jon Land ex Masterplan, Bob Catley dei Magnum, Michael Kiske ex Halloween ed Alice Cooper, niente male. Alle chitarre ci sono Kay Hansen e Ennio Richter, entrambi dei Gamma Ray, Rudolf Schenker degli Scorpions e Sasha Peth. Alla batteria ci sarà Eric Singer dei Kiss, scusate se poco. Allora, siccome questa è un'anteprima assoluta, e spesso le copie che ci mandano hanno proprio dei codici all'interno per far sì che non vengano posizionati in internet e venga effettuato il download, quindi ascolteremo solo una parte di questo brano, che è la traccia numero 3 del progetto Scarecrow Avantasia, si intitola Shelter from the Rain. Yeah. si preannuncia molto bello, da come potete sentire, grande produzione, grandi ospiti, li abbiamo segnalati. Il progetto di Tobias Sam et Avantasia giungerà nei negozi il 25 di gennaio con questo terzo The Scarecrow, dal quale vi ho proposto in anteprima una parte di questa lunga Shelter from the Rain. E arriviamo anche per questa sera al nostro primo appuntamento con le Metal News. Si parla degli Iced Earth, cambio di cantante. Non c'è più Tim Owen, ma il leader chitarrista John Schaffer ha comunicato il rientro in formazione del cantante Matt Barlow. Quindi Matt registrerà la seconda parte del concept album Something Wicked, al quale seguirà un nuovo tour. Schaffer ha anche anticipato che questo nuovo tour verrà registrato, almeno diverse serate dal vivo verranno riprese per pubblicare un DVD live. Royal Ant, nuovo cantante anche per loro, sarà il bravo Mark Bowles, già ex Malmsteen e Ring of Fire. L'album, ricordiamo che sarà il seguito del concept Paradox, considerato il loro capolavoro. Il titolo sarà Collision Course Paradox 2 e sarà pubblicato tra il mese di febbraio e marzo per i Royal Ant. Anche gli Anthrax hanno cambiato cantante, quello nuovo si chiama Dan Nelson, 31 anni, proviene dai Devil's Eyes. Nevermore, il cantante Warren Dane ha completato le registrazioni del suo primo album solista. Le tracce sono 11, delle quali due sono la cover di Lucrezia dei Sister of Mercy e Patterns di Paul Simon. L'album è stato mixato dall'ex chitarrista dei Soilwork, Peter Wickers, che ha contribuito alla stesura delle tracce. Presenti come special guest i chitarristi James Murphy, Jeff Loomis dei Nevermore e Chris Broderick dei Jag Panzer. Parliamo dei Nightfall, curiosa ed interessante iniziativa della gothic metal band greca. Infatti hanno deciso di regalare 4 copie del loro primo vinile e 3 copie del secondo. Unica cosa da fare è quella di inviare un messaggio tramite il loro sito. Ve lo cito, myspace.com/nightfallgr, scritto tutto attaccato dove GR sta per Grecia, scrivendo nell'oggetto Nightfall LP. E quindi vi arriveranno a casa. Death Angel, la thrash metal band americana, ha reso noto che il nuovo album Killing Season uscirà in Europa il 29 febbraio. L'album si compone di 11 tracce. E ora andiamo in Australia per presentarvi e parlare di questo gruppo. Io ho avuto modo di sentire tutte le tracce di quest'album e cerchiamo di lanciarli. Li presenteremo per la prima volta questa sera, vedremo anche di avere altre tracce da quest'album. Di chi si tratta? Si chiamano Airborne, è uscito a giugno solo per il mercato australiano, loro sono di Melbourne e arriverà in Europa a marzo. Questo album, consideriamolo il secondo, si intitola Running Wild. È una band australiana appunto composta da 4 elementi, età compresa tra i 18 e i 22 anni. Il sound è AC/DC prima maniera con, diciamo, dell'epoca Bon Scott. Sono proprio uguali agli AC/DC. Nel 2004 si autoproducono un album d'esordio, o consideriamolo EP, ci sono 4 tracce per lato, si intitola Ready to Rock, pubblicato da un'etichetta indipendente. Questo lavoro colse l'attenzione della Capitol Records, con la quale stipularono un contratto per diversi album. Andarono in tour con i Rolling Stones, addirittura con i Motley Crue in America. Nonostante questo, la Capitol alla fine rescinde il contratto nel febbraio di quest'anno e la band passa alla EMI, che ha pubblicato in giugno l'album Running Wild solo per il mercato australiano. Recentemente la Roadrunner Records li ha presi sotto contratto per la pubblicazione in tutto il mondo e qui in Italia, come vi dicevo, verrà pubblicato nel marzo del 2008. La band quest'anno ha suonato di supporto a Motorhead per le date australiane e soprattutto ha ricevuto 2 nomination per gli awards australiani come miglior album rock e come album rivelazione dell'anno. Questo è uno dei 2 singoli già pubblicati che io vado a proporvi, si intitola Too Much, Too Young, Too Fast. Vi ascoltiamo per la prima volta Airborne, praticamente dei cloni degli AC/DC epoca Bon Scott.